Di cosa si tratta? Allora, so che è comunque un omaggio ad Aldrovandi e a quello che Aldrovandi ha rappresentato nell'ambito della ricerca scientifica e naturalistica, ed è anche, diciamo, correggetemi se sbaglio, un tentativo di unire due mondi che all'apparenza potrebbero sembrare separati, come appunto l'arte e la scienza, ma c'è di più in realtà. Sicuramente l'occasione in cui abbiamo deciso di realizzare questa mostra e di promuoverla tra Fondazione Corinelli e Università di Bologna, il sistema museale d'Ateneo, parte dalla figura di Aldrovandi e della ricorrenza dei 900 anni dalla sua nascita, dei 500 anni dalla sua nascita. E l'idea però è di ragionare in maniera simbolica e metaforica attorno alla figura di Aldrovandi come uomo di ricerca, come uomo di esplorazione nel suo contesto storico, e egli ha fondato un po' le scienze naturali ed è appassionato a una idea di ricerca nel mondo, di catalogazione, di scoperta, di conoscenza, ma anche di proiezione, di immaginazione, di sguardo al futuro. Partendo da questa metafora abbiamo pensato di collegare alla figura di Aldrovandi un'analisi a più ampio raggio sulla cultura umana, sul suo divenire, sul suo sviluppo, e arrivando ai giorni nostri, ipotizzando che quello che è il bagaglio di competenze, di capacità, di attitudini che aveva Aldrovandi siano il bagaglio di un essere umano di oggi che guarda verso il futuro. Ed è per questo che, da una prospettiva anche lontana, quasi siderale, guardandoci all'esterno, se la cultura dell'uomo è 4, 5, 8, 10 mila anni massimo in 3 miliardi e mezzo di sviluppo dell'universo, in realtà tutto ciò non ha più confini, non ci sono più queste categorie, ma l'unicità della cultura può essere interpretata con un approccio olistico che annulla l'idea di arte contemporanea, d'arte antica, d'arte moderna, e annulla la differenza tra le discipline. Un unico approccio, un'unica visione della cultura come bagaglio culturale dell'essere umano per guardare verso il futuro. E ai confini ultimi, che saranno quelli a cui l'uomo oggi si affaccia, sono lo spazio, fuori della natura planetaria, e tutto ciò che lo sviluppo tecnologico, la vertigine tecnica induce e fa riflettere su quello che sarà il destino dell'essere umano. Chiaro. E in che modo questi due aspetti quindi verranno messi insieme, comunque si creerà questo connubio? Sì, mi piacerebbe dirle, si tratta della solita mostra in cui l'arte dialoga con la scienza o in cui l'arte contemporanea dialoga con l'arte antica. Niente di tutto questo. Siamo davanti a un processo metaforico e dall'istintivo assolutamente differente, nel senso che gli oggetti, i reperti antichi, parliamo di fossili di milioni di anni fa, parliamo di oggetti e reperti scientifici raccolti da Aldrovandi e da altri grandi conoscitori, scienziati della nostra Bologna e non solo, e dialogano, è termine sbagliato, cioè si guardano gli oggetti uno con l'altro, con le opere d'arte, in una sinfonia, in un processo creativo che guarda, come diceva appunto Antonio Danieli, verso il futuro, oltre che verso il presente, in uno spazio che non ha spazio, in un tempo che non ha tempo, e verso il quale tutti quanti però inevitabilmente dobbiamo trovarci a essere indirizzati per nostra stessa natura. Quindi è una mostra innovativa perché pone davanti al visitatore un processo conoscitivo, intellettuale, che fino ad oggi sinceramente non si era mai provato a svolgere, a fare, un processo nuovo che speriamo abbia i frutti che desideriamo possano essere raccolti da tutti. Certo. Cosa si deve aspettare, diciamo, il visitatore quando entra nella mostra? Che tipo di impressione? Deve vivere un'esperienza sensoriale, ma non solo, intellettuale, perché è un'esperienza unica quella che si pone al visitatore. Abbiamo scelto per l'appunto di far sì che il visitatore possa entrare dentro la mostra senza avere alcuno strumento di conoscenza ulteriore. Nessuna didascalia ci sarà in mostra, se non attraverso una mappa che verrà data al visitatore e se la richiederà, se no potrà viaggiare attraverso lo spazio, attraverso il signor Ulisse Aldrovandi, come se fosse Ulisse Aldrovandi, cioè pronto per conoscere, battezzare, catalogare tutto lo scibile che si troverà davanti, comprese anche cose che non esistono ancora, perché sono progetti dell'ESA per il futuro, quindi qualcosa che ancora non c'è, ma ci sarà, speriamo. Quindi anche in questo senso un senso appunto di libertà assoluta, sia di approccio proprio alla mostra, che anche ovviamente di libertà nel poter ciascuno pensare quello che vuole. Ecco, ha detto bene, la libertà, quello che sia, no? Un termine corretto. Ogni visitatore sarà chiamato a immedesimarsi in quello che fu Ulisse Aldrovandi e a vivere questo percorso con un'idea di ricerca, di scoperta e di immaginazione. Quindi tutti, anche personale. Tutti saranno chiamati a fare questo a livello intimo e personale. dando interpretazioni diverse, immagino. Assolutamente, assolutamente, ma questo vogliamo, certo. E questo è libero e questo deve accadere. Esatto. Poi dopo ci sarà la possibilità, se uno vuole. L'interpretazione dopo... scritta c'è già, no? Abbiamo scritto un catalogo, c'è quello che c'è, cioè, ma questo è il punto, certo, di partenza per varie e infinite interpretazioni, come sarebbero state quelle, no, normalmente da svolgere per qualsiasi conoscitore che sta davanti a qualcosa che non ha, no, gli strumenti per approfondire immediatamente. Vogliamo ricordare a chi ci ascolta quando e dove avrà luogo appunto la mostra? Sarà al Centro Arti e Scienza Gulinelli, presso Pupitio Gulinelli, in via Paolo Nani Costa 14 a Bologna, dal 4 febbraio fino alla fine del mese di maggio. D'accordo, grazie mille. Vi aspettiamo.